A Sparkle on the Dark Water, questa scintilla, questo innesco su una profondità oscura, e tanto più che diversi lavori anche di ispirazione con ritmiche tipiche del trip hop. Come nasce questa passione e se ci puoi aggiungere qualcosa anche sulla formazione per il lavoro, sì, Pindar? Certo, allora i Pindar nascono praticamente durante il Covid, come penso moltissimi progetti. Da me, Cecilia e Max Tarenzi, che è il chitarrista, come progetto, diciamo, proprio a livello di formazione del progetto, però noi ci conoscevamo già da prima e già prima avevamo avuto altri progetti da parecchi anni, siamo sulla scena, e poi si aggiunge invece Live, ma ormai anche per le sfumature, per i dettagli, per gli approfondimenti, Alessandro Baris alla batteria, che è tra l'altro, oltre che un bravissimo polistrumentista con un suo progetto personale, anche batterista di vari altri progetti, tra cui gli Atois Orchestra attualmente. Questo progetto è nato col Covid, ma si è staccato poi da quel momento, dalla fotografia di quel momento, però effettivamente le tematiche sono tematiche scure, cioè sono comunque, sia per i miei testi che proprio per la profondità del suono, per l'oniricità di tutto quello che cerchiamo a livello di emozione, sono temi abbastanza importanti sul nostro mondo, su dove sta finendo, andando, diciamo, per ora non finendo, e poi così il nostro suono era alla ricerca un po' del Bristol Sound, sì. E quindi chiaramente sia i Massive Attack, di cui tra l'altro il nostro attuale, cioè quello, diciamo, che ha partecipato che ha collaborato alla realizzazione di quest'ultimo album, A Sparkle on the Dark Water, che è Bruno Ellingham, è collaboratore con i Massive Attack, ha fatto vari dischi, anche Uncle, cioè è sempre stato un po' in quella zona dove noi siamo andati a registrare durante un tour l'anno scorso, e poi infatti l'album è uscito a marzo esattamente dell'anno scorso. Vedo che sei preparata, hai citato anche Uncle, progetto Mowox, che mette insieme diversi aspetti anche con la realtà figurativa. A tale proposito ho letto di periodi di lavorazione dell'album in Inghilterra, e dove siete entrati in contatto con James Johnston, anche questa, esatto, è una figura importante, che oltre a essere musicista è anche un pittore, un artista a tutto tondo, ecco. Esatto, infatti è una figura molto affascinante. Ne aggiungo un'altra di cui avete avuto produzione, non da sottolineare, che è AWB. E quindi questo è il primo album, l'album precedente, Parallel, che appunto abbiamo realizzato noi durante il Covid praticamente in un home studio, e poi però ci siamo così, abbiamo buttato, nel senso letteralmente, nel mare magnum di internet, così abbiamo cercato un produttore che ci piacesse, ci hanno risposto in tanti, probabilmente perché in quel momento era più facile, però ci hanno risposto in tanti, ma quando ci ha risposto WB è stato un sobbalzo, abbiamo detto. Ci credo. È fatta, cioè è proprio quello che cerchiamo, e c'è stata questa ovviamente collaborazione a distanza per ragioni pratiche, non ci si poteva spostare, però poi abbiamo anche fatto amicizia con Ave, perché è una persona molto particolare, speciale. Insomma, quanto riguarda James Johnston, volevo dire che sono tornata a James, che comunque fondatore di Gallon Drunk, era in tour, stava per partire in tour in quel momento con PJ Harvey, ma lui ha fatto parte di tutti i tour di Nick Cave and the Bad Seeds, quindi comunque un personaggio molto particolare, che tra l'altro dipinge in una maniera estremamente dark e originale. Quindi quando ci ha fatto vedere le sue tele e gli abbiamo detto, ma se ce ne fosse una che può in qualche modo matchare bene con la nostra musica, cioè, scegliete, non ci posso credere. Allora, a quel punto queste tutte la prendiamo per le prossime 20 copertine. No, ma comunque abbiamo scelto quella che ci sembrava che fosse quello sparkling di cui parlavamo, di cui il titolo appunto viene ripreso, certo, sì, anche dal punto di vista visivo e artistico, non solo dalla realtà musicale, ma anche sì, per quanto riguarda, come ho detto, un'espressione completa. Sarà questa sera, sarà domani sera, scusa, sabato 8 marzo alle ore 21:30 a Bologna, locale Efesto in via Castiglione 35. Allora, detto ciò, completiamo anche la formazione con il chitarrista Max Terenzi, anzi Tarenzi, lo voglio pronunciare sì, bene, esattamente. Esatto. E vi presenterete appunto con questa modalità, lui chitarrista e tu alla voce, più effetti elettronici di produzione originale, ho capito bene? Sì, e poi io comunque il mio microKorg con cui praticamente faccio e doppio dei bassi, perché il basso non c'è nella nostra formazione, è affidato a me e appunto a delle elettronica, parti, certo, elettroniche, sì. Bene, allora, per la presentazione a Bologna o riproposta ufficiale di A Sparkle in the Dark Water, ribadisco l'appuntamento per domani alle ore 21:30. E di questo locale ci puoi dire qualcosa di più, tu che ne sarai presente domani? E Festo, mi affascina realtà molto, come il vostro nome, Pindar, che è da Pindaro, dai voli. Sì, esatto, Pindaro dai voli, pindarici in universi paralleli, distopiche o comunque diverse. Per il Festo devo dire che sono più curiosa io di te, perché me ne hanno parlato tutti in un modo, come se un posto speciale, molto magico, con una cornice particolare, elegante, molto, molto diversa, diciamo, dal locale, no, solito, e quindi credo anche un po' più intima, però estremamente bella, perché le persone sono vicine e c'è una partecipazione, penso, calda. Io questo è quello che mi aspetto, oltre a questa cornice bellissima che vedo nelle foto, ma purtroppo non so dirti di più, perché okay, non ci sono mia, mai ammetto, stato. E allora anche la mia curiosità, che domani scioglieremo questa curiosità